La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, buon agosto, siamo alla prima puntata agostana, inizia la piena estate della Rosa Purpurea che cambia volto in maniera impercettibile per questo mese di agosto. Continueremo a raccontarvi tutti i film che ci sono in questa estate 2012, tutti i film nuovi che escono in sala, sapendo che durante il mese di agosto non sono moltissimi, ma qualche proposta comunque c'è, qualcuna anche soprattutto dopo Ferragosto piuttosto interessante. Cercheremo anche di raccontarvi proprio anche a partire da questa settimana un po' di più quelle che sono le novità che vedremo al cinema nel prossimo autunno, inverno diciamo, italiano, soprattutto novità di cinema italiano, perché siamo andati a curiosare su un po' di set, ma anche a intervistare i protagonisti, i grandi protagonisti della stagione del cinema italiano della prossima stagione, appunto quella che si apre poi con il Festival di Venezia. Quindi sarà un agosto nel quale la Rosa Purpurea non mancherà certo l'informazione, anzi saranno tante le novità e le anticipazioni. Siccome siamo in pieno clima olimpico, non ci dimenticheremo neanche di quella che è la sede delle Olimpiadi, Londra, che sta vivendo sotto gli occhi dei riflettori di tutto il mondo, e cercheremo anche di scoprirne tutti i suoi tanti aspetti cinematografici. Però cominciamo a entrare nei contenuti di questa puntata con i nostri titoli di testa. L'estate si abbatte sul grande schermo. Fra gli ultimi scampoli di stagione, il ritorno di John Woo con il film di cappa e spada La congiura della pietra nera. Storia di una provetta spadaccina nella Cina antica che cerca di cambiare vita e di sfuggire al suo destino. In sala anche un'altra firma della regia, è l'irlandese Jim Sheridan, 6 nomination agli Oscar, che si cimenta col thriller psicologico in Dream House. Una coppia fugge coi bambini dalla frenesia di New York per cercare pace in una casa del Connecticut. Ma l'idillio dura poco, con Daniel Craig e Naomi Watts. 25 anni di capolavori scoperti e distribuiti in Italia. La Lucky Red ha fatto conoscere al nostro pubblico film memorabili, da Priscilla ai Soliti Sospetti, passando per The Millionaire. Ne parliamo con il fondatore Andrea Occhipinti per scoprire come è cambiato il cinema in questo quarto di secolo. Mentre le Olimpiadi tengono incollati alla TV milioni di persone in tutto il mondo, Londra rispolvera la sua vocazione di città cosmopolita e cinematografica. Inizia un viaggio in 3 puntate alla scoperta della Londra di celluloide, da Notting Hill a Harry Potter. E come dicevo, appunto, prima di passare all'attualità, alle novità che arrivano in sala in questo fine settimana, noi vogliamo dedicarci a Londra, città ovviamente attrattiva per eccellenza. Sono poche le città come Londra, possono essere Parigi, New York, che hanno sempre negli anni esercitato lo stesso grande carico, fascino sui viaggiatori, sui turisti di tutto il mondo, per motivi chiaramente di grande varietà e anche che è difficile condensare. Però Londra in questo momento con le sue Olimpiadi sta vivendo proprio sotto gli occhi dei riflettori globali di tutto il mondo, di tutti i continenti. Miliardi di persone stanno assistendo a questa grande kermesse sportiva, e allora noi ci siamo detti: perché non proviamo qui alla Rosa Purpurea, approfittando di questo caldo agosto, a cercare di dare tre sfaccettature diverse della Londra cinematografica, quella della magia di Londra, quella dei suoi grandi personaggi e quella delle varie zone, dei quartieri che sono stati resi noti proprio grazie ai film. Abbiamo dato l'incarico a una grande amante di Londra come la nostra collaboratrice Chiara Pizzimenti, che ha cominciato e comincia questa settimana a raccontarci la Londra magica. Questa è una storia senza tempo, di ieri come di domani. Ma quanto al luogo, non v'è dubbio, essa ha inizio a Londra, in una strada del quartiere di Bloomsbury. Nella casa d'angolo laggiù abitava la famiglia Darling, e Peter Pan la prescelse fra tante altre perché là vi era più d'uno che credeva nella sua esistenza. Si sa che Peter Pan viaggerà poi verso l'isola che non c'è, ma come ci racconta il prologo del film Disney del 1953, nel doppiaggio italiano di allora, la prima tappa è stata Londra. Se Se preferite la magia degli effetti speciali, potete fare un volo sulla capitale inglese di metà 800, addobbata per il Natale. E Christmas Carol, il canto di Natale di Charles Dickens del 1843, in versione digitale, in 3D, firmata Robert Zemeckis. Tutti gli studenti devono essere forniti di un calderone in peltro misura standard 2. E possono portare, se lo desiderano, o un gufo, o un gatto, o un rospo. Tutto questo lo troviamo a Londra. Se sai dove andare. Avete ricevuto la vostra lettera da Hogwarts? Bisognerà andare a Diagon Alley. Ci si arriva attraverso il paiolo magico, che si trova in Charing Cross Road. Di corsa ora alla stazione di King's Cross. Binario? 9 3/4, ovviamente. Quella di Harry Potter è una Londra magica con i piedi ben piantati nella città reale. Ma non è altrettanto magico il momento della nascita? In un appartamento vicino a Regent's Park di un'intera cucciolata di dalmata. I cuccioli! I cuccioli! Oh, stanno nascendo! Oh. Quanti? 8! 8? Per Giove, Pongo! 8 figli! 10! 11! 13! No! 14! 15! 15! E la madre sta divinamente, caro! Per Pomidottone e Manici di Scopa c'è solo una strada da frequentare. Portobello Road, Portobello Road, quante stupende ricchezze ci son, troverai ricordi d'ogni generazione sulle bancarelle di Portobello Road. Infine, un salto indietro di qualche anno per arrivare al 17 di Cherry Tree Lane, dove vive la famiglia Banks e con lei la più rinomata fra le governanti, quella Mary Poppins che vanta amicizie altolocate. È bello vivere sempre così e insieme cantare cantantini, cantamini cantam lo spazzacani. E questa era Chiara Pizzimenti che ci ha raccontato Londra magica. Continueremo a occuparci della città olimpica nelle prossime puntate qui alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. La pietra nera è un potere occulto temibilissimo. La sua influenza sarebbe arrivata persino a corte. Pare che tengano in pugno le vite di tutti gli ufficiali e persino dei mandarini. Hanno detto che è stata Shi Yu a rubare le spoglie del maestro. La sua tecnica della spada d'acqua sferzante è talmente veloce che le sue vittime sembrano tagliate da una pioggia sottile. Prima la uccidiamo insieme, poi dividiamo la taglia tra di noi. Abbiamo voluto farvi sentire questa clip in apertura tratta appunto dalla congiura della pietra nera, che ci porta in una Cina ancestrale, antica, dove ancora una volta si consumano i riti del Wuxia Pian, del cinema di cappa e spada, del racconto di cappa e spada cinese, un racconto che sta proprio dentro le corde della cultura cinese, che fu nel periodo di Mao bandito e visse solo grazie, se vogliamo, alla permanenza ad Hong Kong, dove maestri come Zhu Yark continuarono a portarlo avanti, e poi fu risdoganato, diciamo, una decina d'anni fa, prima da un film come La Tigre e il Dragone, ma poi dallo stesso Zhang Yimou, che firmò La Foresta dei Pugnali Volanti. Insomma, ecco, se avete amato questo cinema fatto di arti marziali, di grandissimi combattimenti, di evoluzioni ben al di là del possibile umano, diciamo, in termini di salti, di colpi, di uno contro tutti, ecco, se avete amato quella cosa lì, questo è il film che fa per voi. La congiura della pietra nera, che arriva con un ritardo clamoroso nelle sale, portato da Tucker, film che era stato mostrato a Venezia lo scorso anno, quindi esattamente un anno fa, che però finalmente la via della sala la trova. Non aggiunge magari moltissimo a quello che conoscete di questo genere, però sicuramente ha un taglio particolare, che è questo di raccontare una donna, una killer spietata, vietata, appunto questa che avete sentito raccontare, che viene chiamata pioggerellina proprio per la sua capacità e la sua velocità che si abbatte sulle sue vittime. Ebbene, la setta della Pietra Nera si è fatta sfuggire questa killer, perché questa donna vuole cercare, ha voluto cercare, inseguita dai sicari, una nuova vita. E per farlo, e qui c'è dentro anche un po' di face off se vogliamo, per farlo si è fatta cambiare faccia, si è invecchiata, si è portata in un'altra località cinese, dove prova a vivere una vita normale con un marito che sembra essere un buon tempone, sì, un ragazzo di buoni principi, anche un po' imbranato sotto certi aspetti. I due trovano una unione, una serenità, ma come dire, la Pietra Nera è una di quelle sette che non ti molla, non ti lascia, prima o poi ti trova. E infatti la nostra viene trovata. La nostra viene trovata perché su di lei cadono i sospetti di sapere troppo su dove si celi l'oggetto del contendere, che in questo film è mezzo corpo di un signore che è morto tanto tempo prima, un monaco, si chiama Bodhi. Sembra che chi ha tutte e due le parti del suo corpo, che era stato segato in due, ha dei poteri, può avere dei poteri straordinari. E siccome tutti sospettano la Pietra Nera, che è la signorina che si è portata dietro il mezzo corpo, ecco che la vanno a cercare in capo al mondo, anzi in capo alla Cina. La trovano e la nostra chiaramente si trasforma in quello che davvero è, anzi torna ad essere quello che davvero è, un killer davvero spietato. Chi consegnerà la testa di Shiyu presso la banca di Luo Yang riceverà dalla Pietra Nera una ricompensa in oro di 50.000 tael, oltre a 85.000 tael d'argento. Aspetta! Chi prenderà i resti di Bodhi? Secondo le regole delle arti marziali, chi li ritrova ne diventa il custode. Non c'è ragione di darli alla Pietra Nera. Non abbiamo paura di voi. Se saremo noi a ritrovare i resti, sarà nostro diritto tenerli. Parliamo un po' di cast di questo film. Michelle Yeoh è la protagonista, diciamo nella versione invecchiata, che entra in scena dopo una decina di minuti circa, ma soprattutto il grande nome sta dietro la macchina da presa, in coregia questa volta, ovvero John Woo. Allora, John Woo che torna a fare il cinema cinese più tradizionale, se vogliamo, come genere, quello appunto del Wuxia Pian, sta un po' come a Zhang Yimou, cioè grandi nomi di generi diversi sicuramente, però del grande cinema cinese, che ritornano a cimentarsi con questa materia, che è una materia, come dicevo, che sta nelle corde della cultura cinese in generale. E la mano di John Woo in questo senso si fa notare, si fa vedere. L'azione è un'azione molto fluida, ci sono per esempio i cattivi, quei vari partecipanti alla setta, ognuno specializzato in una arte marziale o addirittura in un colpo preciso. Sono cattivi che ricordano tanto quelli di The Killer, per dire, con il regista taiwanese all'epoca, Su Chopin. Ma è un cinema che non lascia mai lo spettatore freddo, anche se, come ripeto, non è che le cose poi che si vedono siano meno maestose o non già viste, come era capitato nei film recenti che vi ho citato prima. Però tutto sommato è un divertimento, un intrattenimento gradevole e anche abbastanza alternativo a un cinema d'azione più occidentale a cui siamo sicuramente più abituati. Questo è La congiura della Pietra Nera. E allora, abbandonato questo film, consegnato questo film agli annali dell'uscita di questo primo weekend d'agosto, noi andiamo avanti a parlare di un altro grande nome del cinema, totalmente diverso, totalmente opposto a quello di John Woo per storia, tradizione e anche provenienza, ma che ancora una volta, insomma, incrocia in questo inizio di agosto le sale cinematografiche italiane. Parliamo di un film che si intitola Dream House, un altro viaggio, potremmo dire, dentro una sorta di situazione thrilling. È un po' una delle cifre di questa estate. Jim Sheridan, l'irlandese Jim Sheridan, lo firma nel cast, niente niente meno che 007 Daniel Craig, Naomi Watts, Mark Wilson e Rachel Weisz, quindi, come dire, cast importante, per raccontare di una famiglia benestante che riteneva di scappare dalla frenesia di New York rifugiandosi in una casa molto carina, come cantava qualcuno nel Connecticut, scoprendo chiaramente che quella casa non era affatto carina. C'erano una volta due bambine che vivevano in una casa. Papà, sei tornato! Ah! Sei così bella. Resta così per sempre. Ehi, hey, Will, vieni a vedere. Guarda, chissà dove sono ora. Tesoro, ti senti bene? Che cosa ti spaventa? C'è qualcosa là fuori. Là! Questa perelisa centellinata con un pianoforte un po' stonato aiuta a entrare un po' nel clima. Salutiamo Boris Sollazzo in questa prima puntata di agosto. Ciao Boris! Salve Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Dream House, la casa dei sogni, potremmo chiamarla più che altro la casa degli incubi. Ma assolutamente, casa degli incubi per tanti, non solo per chi vedrà il film, ma è stata casa degli incubi anche e soprattutto per Jim Sheridan. Qualche giorno fa ci chiedevamo come mai un film con questi nomi e con questo regista fosse stato relegato all'Estate Profonda, che notoriamente insomma in Italia non è foriera di una distribuzione potente al cinema, ancor meno di spettatori. E l'ho scoperto vedendolo, è straordinariamente brutto, un film tra i peggiori credo finiti sullo schermo negli ultimi anni, un film che ha costato 50 milioni di dollari e ha racimolato la miseria di 38 in giro per il mondo, un film che credo abbia fatto il record negativo su Rotten Tomatoes, che è uno dei siti più accreditati perché raccoglie insomma recensioni di addetti ai lavori ma anche di spettatori molto critici, è arrivato a un 6%, una delle percentuali più basse, è un film che lo stesso regista ha ripudiato perché la produzione, come forse faceva solo Dino De Laurentiis, a un certo punto ha preso in mano le sorti del film, ha deciso di rimontare grandi pezzi del film, di Sheridan ha deciso di cambiare il senso del film, finché Sheridan si è addirittura rivolto alla Directors Guild of America per togliere il suo nome dai credits, ha perso diciamo la causa e quindi si è limitato a non accompagnare durante la promozione il film e a non parlarne mai, e lo stesso più o meno hanno fatto i tre protagonisti. Il film, come hai detto tu, è un thriller horror, il classico house thriller di questa famiglia composta appunto da Daniel Craig e Rachel Weisz, con annesse e bambine, che si ritrovano in una delle solite case maledette. La cosa che colpisce più il film è che questa doppia o tripla o quadrupla mano che c'è all'interno del film, cioè regista, produttore, poi uno sceneggiatore che è stato vittima di un ammutinamento, sul set si improvvisava perché non si voleva seguire la sceneggiatura dello scrittore, si vede benissimo anche nel film, perché per tre quarti d'ora la preparazione della suspense, la preparazione del momento in cui si arriverà, tu hai fatto sentire un pezzo di film in cui ancora ci si aspettava di vedere un gran film, diciamo che non dico che è perfetta, ma effettivamente è sicuramente efficace. E poi c'è il patatrack, si vede benissimo che si perde ogni logica del film, in alcuni casi il montaggio è talmente delirante che si perdono proprio dei pezzi di film, dei pezzi del racconto, ci sono cose non dette, cose non viste, e quindi il film è stato tragicamente rovinato da una produzione che è intervenuta così pesantemente di fatto per rovinarlo in maniera irrimediabile. Quindi veramente il mio consiglio è non andare a vedere Dream House, perché è una sofferenza e lo è stato anche per chi l'ha fatto, non solo per chi lo vedrà. Abitate qui e non sapete degli omicidi? Quali omicidi? Tutta la famiglia è stata uccisa, il padre è sopravvissuto. Chi è stato? I sospetti caddero sul padre. Peter Ward, la casa del massacro. Tutti quelli che abitano in questa casa vengono uccisi. Perché i vicini non ci hanno detto niente? La casa è rimasta vuota per tanto tempo. Dovrei parlare con lei di uno dei vostri pazienti, Peter Ward. Assicuriamoci di parlare dello stesso uomo. Quello non è Peter Ward. Quello sono io. Sei stato in quest'istituto per 5 anni, Peter. No. Ti abbiamo dimesso 7 giorni fa. Insomma, ingredienti che Sam Raimi e Wes Craven avevano già messo sul fuoco una 30 anni fa, diciamo così, anche a risentirli da questo trailer. Grazie, Boris. Appuntamento la prossima settimana. Ti do già appuntamento e lo dico anche ai nostri ascoltatori, perché settimana prossima parleremo di tutte le novità più importanti della stagione estiva americana, che in America la stagione estiva è la stagione per eccellenza. Quindi, insomma, ci sentiamo fra 7 giorni. Grazie a te, Franco. Ancora insieme alla Rosa Purpurea e la terza parte del nostro programma, in questa prima puntata di agosto vogliamo cominciare un percorso che ci terrà compagnia per tutto questo mese d'agosto, proprio con le anticipazioni dei film che potremo vedere sul grande schermo nel prossimo autunno, film italiani, perché siamo andati a curiosare su diversi set, abbiamo incontrato diversi registi, diversi attori che ci hanno raccontato i loro progetti proprio per la stagione 2012-2013. Allora, la Rosa Purpurea, complice anche un certo calo ovviamente del prodotto cinematografico in sala, vuole far sì che questo mese di agosto sia un mese che vi possa informare fino in fondo su quelle che sono appunto le anticipazioni del prossimo autunno, grazie a interviste uniche e a volte addirittura esclusive. E allora cominciamo questo nostro percorso con un buon compleanno, perché una grande casa di distribuzione, la Lucky Red, compie 25 anni di cinema, un quarto di secolo. È una casa che ha fatto della qualità del cinema, diciamo così, d'autore, d'essè, di ricerca, del cinema non banale, ha fatto il suo marchio di fabbrica, e questi 25 anni sono stati davvero punteggiati da una serie di capolavori distribuiti in Italia dalla Lucky Red, e fra poco ne sentiremo un po' alcune tranche, alcuni brani nel montaggio dell'intervista realizzato con il fondatore della Lucky Red, Andrea Occhipinti. Ma forse il film, anche che in tempi relativamente recenti ha più di tutti marchiato il percorso di questa casa di distribuzione, è stato The Millionaire. Signori, bentornati a Chi vuole essere milionario. Posso certo dire che questa sera è la sera più importante delle nostre vite. Jamal Malik, che lavora in un call center di Mumbai, ha già vinto 10 milioni di rupie. Stasera può andarsene con questa cifra in mano. O intascare il bottino più grande nella storia della TV, rispondendo alla domanda finale per l'incredibile cifra di 20 milioni di rupie. Sei pronto per questa domanda? Sì. Nel libro di Alexandre Dumas, I tre moschettieri, due dei moschettieri si chiamavano Athos e Porthos. Qual era il nome del terzo moschettiere? Vieni, ragazza mia, vieni pure. A. Aramis. B. Cardinal Richelieu. C. D'Artagnan. O D. Planchet. Voglio telefonare a un amico. Vuoi tentarle tutte? L'aiuto finale. Eccoci qua. Sta squillando. Sei rimasto solo, Jamal. Pronto. 25 anni fa, quando questa avventura partiva, ti aspettavi che sarebbe durata così a lungo? E cosa ti aspettavi che sarebbe stato il cinema 25 anni dopo? Ma guarda, non si sa mai quello che sarà il percorso. Il percorso lo si fa piano piano e aggiungendo film dopo film, e in qualche modo ti crei un'identità della società che il marchio Lucky Red ha creato nel tempo. Con tanti film che abbiamo proposto e offerto, dai Soliti Sospetti a Priscilla, a Il Divo, all'Amore Molesto, sono tantissimi i film. Come è cambiato il cinema? È cambiato un po' la fruizione del cinema. Mentre una volta la permanenza in sala era più lunga, più centrale, oggi i film si vedono molto anche in DVD, si vedono nella Pay, si vedono in VOD, sui tablet, in televisione, per cui diciamo l'utilizzo del film è cambiato negli anni ed è anche più veloce il consumo dei film in sala. E questo va a discapito anche dei film, diciamo, più di nicchia, più d'autore, perché In pratica devi fare un risultato nel primo fine settimana e dunque devi dare più visibilità da subito al film. Chi è Kaiser Söze? Beh, pare che sia turco. C'è chi dice che il padre sia tedesco. Nessuno crede che esista davvero. Nessuno l'ha mai conosciuto o visto qualcuno che abbia lavorato per lui. Ma a sentire Kobayashi, chiunque avrebbe potuto lavorare per Söze. Non lo sapevano. Era questo il suo potere. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste. Una storia del terrore che i criminali raccontano ai figli. Se non obbedisci a papà, Kaiser Söze ti porta via. Ma nessuno ci crede veramente. Tu invece ci credi, Verba? Keaton diceva sempre: io non credo in Dio, però ho paura di lui. Beh, io credo in Dio. E l'unica cosa di cui ho paura è Kaiser Söze. La scarsa tenitura in sala nelle prime settimane di film che hanno bisogno invece di tempo ha portato anche forse alcuni esercenti a cambiare strategia e alcune sale a scomparire del tutto. Beh, un po' è così, perché il passaparola, che è fondamentale per certi film, ormai non esiste più, non c'è tempo per il passaparola e molti film d'autore hanno bisogno proprio di quello. Per cui cerchiamo anche noi, abbiamo un po' corretto il tiro e cerchiamo di prendere magari dei film che vengono da festival, che hanno una, possono essere aiutati da un premio, da una fama, da anche poi insomma sempre spesso li prendiamo prima, per cui deve essere l'intuizione che quel film potrà diventare importante e grande, come è successo con The Millionaire, come è successo con The Wrestler e molti altri che erano sconosciuti ai più prima che uscissero. Questo sì, rende, se vuoi, un po' più difficile la vita a certi film più piccoli, più di nicchia, e quei film probabilmente saranno visti solo attraverso il VOD, il video on demand, cioè le piattaforme digitali, che diventeranno un po' quelle che daranno un'offerta più variegata anche di tipologie di film diversi, il documentario o film magari di cinematografie meno conosciute. Quindi stai dicendo che per alcuni film ci potrebbe essere un futuro che non è la sala? Beh, penso di sì, perché come dicevo prima, far uscire un film è un investimento importante, perché gli devi dare visibilità il primo fine settimana che esce, e questo richiede un investimento importante, per cui se il film è piccolo, non ha le caratteristiche o la potenzialità di avere un pubblico molto ampio, devi trovare un'altra strategia, e la strategia di visibilità può essere quella del VOD, come dicevo. 4 settimane, la paga è al minimo, sono 2 spettacoli a sera ed è compreso anche l'alloggio. Deserto vengo a te, coi tacchi a spillo ai piedi. Lei porta il tema, sì, io porto l'ecstasy. Fanculo belle mie, ci rivedremo, zie. Deserto vengo a te, hip hip hip, hip per me. Ta-da! Che ne pensate? Quando è che dobbiamo riportarlo all'asilo? Con la qui presente io battezzo questo squallido camper di Barbie Priscilla, la regina del deserto. Hai fatto alcuni titoli, c'è un film di cui sei più orgoglioso di tutti in questi 25 anni di storia? Ma guarda, sono orgoglioso che Lucky Red rappresenti un marchio di garanzia, banalmente, o che rappresenti per il pubblico una garanzia di film di qualità e di un'offerta variegata e curiosa, e questa non c'è un figlio che preferisco agli altri. E invece un figlio che non hai avuto e che avresti voluto avere? Ce ne sono tanti. Ma ce ne sono tanti, spesso mi piace dire che uno forse degli autori che avrei voluto sempre distribuire è Almodovar, che non siamo mai riusciti a fare almeno nei film in sala. Abbiamo un ampio catalogo in DVD, ma i suoi film non siamo mai riusciti a distribuirli. Chissà che in futuro non ci riusciamo. Grazie. Prego. I 25 anni quindi della Lucky Red, nell'intervista ad Andrea Occhipinti, fondatore ancora, diciamo così, numero uno di questo marchio di distribuzione. Dicevamo però anticipazioni, nuovi film italiani che stanno per arrivare nelle sale, lo faranno da settembre in poi, lo faranno nel corso della nuova stagione, non lo faranno solo in Italia, ma spesso arriveranno anche su schermi internazionali. Vogliamo cominciare con l'animazione, perché abbiamo avuto la sensazione alle recenti giornate professionali del cinema Cinea, Riccione, che l'anno prossimo potrebbe essere un anno di riscatto importante per l'animazione italiana. Sono molti i progetti di animazione made in Italy che rimettono in campo alcune forze produttive, industriali e anche artistiche importanti del nostro paese in questo settore. E allora vogliamo cominciare con Iginio Straffi, fondatore della Rainbow, un piccolo impero molto stimato a livello internazionale, il creatore, il papà delle Winx, che però si cimenta nuovamente con il grande schermo, con la sala, con un progetto molto molto ambizioso, il progetto di Gladiatori di Roma, un film d'animazione, d'animazione italiana, d'animazione in 3D, che vuole portare il mito dei gladiatori oltreoceano, e c'è già una grossa distribuzione internazionale che attende. E allora ascoltiamo questo piccolo trailer di Gladiatori di Roma e poi l'intervista a Iginio Straffi. In piedi splendenti! Oggi dobbiamo intrattenere un imperatore! Questa è Roma! Questo è il mio corso dal quale voi non uscirete vivi! Se ne fate un dramma, tornate dalla mamma! Non ci volete stare, mettetevi a frignare! Allora balliamo! Metti la tua firma su questi! Mi dispiace, fagottino, ma per contratto non posso farti l'autografo su questa marca di sandali. I tuoi riflessi sono veloci. Quali? Fregato! Guardando il listino mi veniva in mente Iginio Straffi alla conquista dell'America un'altra volta, nel senso che ho visto che il tuo film sarà distribuito da Paramount e andrai a raccontare agli americani una storia di gladiatori, cioè la più romana che c'è. Beh, mi sembrava il minimo quello di, da italiani appunto, raccontare una storia che portasse Roma o comunque l'Italia, la storia, all'avanguardia, insomma, ecco, alla ribalta. Sicuramente è un'ambientazione che non è mai stata ancora sfruttata, quindi era molto molto originale anche questo. E poi i gladiatori ovviamente si prestano per tutta una serie di gags, di azioni che non ti aspetti, ecco. E poi mi viene in mente se Pixar sta portando gli antichi, no, gli antichi scozzesi con Brave, noi abbiamo la nostra storia da raccontare e c'è molto. A livello proprio di animazione e di artistico proprio, come nasce questo approccio a questa storia qui? Cioè con quale sguardo hai guardato verso questo passato così glorioso? Ma sicuramente abbiamo cercato di fare una cosa che, sebbene si basasse su una sceneggiatura che ho scritto insieme a Michael Wilson, che è l'autore dell'Era Glaciale, Shark Tales, quindi un maestro di Hollywood, però appunto cercando di limitare a volte quell'occhio, diciamo, troppo americano che troviamo in alcune produzioni di queste major, in cui appunto, adesso tanto per dirne una, c'era una situazione a un certo punto in cui nel Tevere Michael Wilson aveva scritto con i coccodrilli, eccetera. E ti credo, i coccodrilli nel Tevere è un cartone animato, quello che vogliamo, però non posso metterli perché da noi le maestre sicuramente ci farebbero, si arrabbierebbero ancora molto per questi. E quindi diciamo che, ecco, è una storia sicuramente un po' diciamo enfatizzata, sicuramente non vuole essere nulla di storico, cioè non è un documentario, però chiaramente abbiamo avuto un occhio molto europeo, ecco, nel raccontare Roma, i gladiatori e quello che è, anche l'eroe stesso, devo dire che è un eroe molto europeo e speriamo che piaccia agli americani, perché non è un supereroe, è un eroe che vince grazie a un percorso, è un eroe che poi anche alla fine, eroe quasi per caso, però per volontà, ma diciamo non per essere un super. E quindi ecco, è un film sicuramente di una sensibilità molto comunque europea, che speriamo piaccia anche agli americani. Tu hai conquistato, hai aperto mercati con la tua factory ovunque nel mondo, e quindi mi sembri la persona giusta a cui chiederla questa cosa: come si conquista il pubblico americano, che non è poi così facilmente definibile, anche aggredibile, no? Sicuramente sì, sono perfettamente d'accordo, è un pubblico molto difficile, perché prima di tutto c'è una grandissima offerta da tutte le parti, ci sono poi i costi di marketing molto importanti, e c'è anche, last but not least, bisogna metterlo, una lobby comunque sotterranea, che ne dicano, che già con i film sappiamo benissimo che appunto non li fanno doppiare, comunque hanno tutte le loro maniere per non farti arrivare, ma anche appunto nella TV, essendo un'industria dominante per loro, è importante, cercano di tenere gli outsider fuori dalla porta. Quindi diciamo che ci sono barriere sia a livello di entrata, sia poi comunque per raggiungere il gusto dello spettatore finale, che è simile ma comunque diverso da quello europeo o asiatico. Allora sono in bocca al lupo per questa avventura. Crepi il lupo, e ripeto, noi abbiamo usato uno sceneggiatore americano, sicuramente è un film dal sapore e dalla grandiosità un po', ecco, da grande film americano, però comunque c'è tutta una sensibilità, un'ironia, a volte un tratto psicologico, ecco, dei personaggi, non superficiale ma approfondito, che è tipico del cinema europeo. Iginio Straffi ci ha raccontato il progetto di Gladiatori di Roma nella prossima stagione sui grandi schermi d'Italia. La prossima settimana parleremo di un altro film d'animazione molto atteso, il Pinocchio, che segna il ritorno di Enzo Dalò. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte del nostro programma, eccoci a parlare di cinema da vedere in casa, cominciando come sempre con le proposte dei palinsesti televisivi della prossima settimana, in chiaro e gratuiti, insieme agli amici del settimanale Film TV. C'è in collegamento con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Allora Giulio, ancora una coppiata un po' delirante, come ci piace fare qui alla Rosa Purpurea, mischiando generi, stili, anni, epoche, attori e registi, ma sempre ottimo cinema, perché oggi vogliamo segnalarvi, dai prossimi palinsesti, un film fluviale, lo definirei. Ricordo la prima a Cannes, nella versione ancora, diciamo, col director's cut, qualcosa come 4 ore e 20 minuti circa. Poi la versione commerciale, virgolette, durava solamente, virgolette, poco meno di 4 ore. Ma insomma, un film che si faceva sicuramente... apprezzare anche per la grandissima capacità di racconto, la lentezza, eccetera, ma con due attori veramente strepitosi. Stiamo parlando de La Bella Scontrosa. Sì, giovedì 9 agosto alle 4:30 della notte, quindi sostanzialmente venerdì 10 agosto, su Rai Movie, La Bella Scontrosa. Questa è la versione ridotta dall'autore a 2 ore del suo film lungo 4 ore e 20 e vincitore del Gran Premio della giuria Cannes, ed è la storia di un pittore in crisi che si decide di portare a termine il quadro sintesi della sua carriera, della sua vita, dopo l'incontro con una donna. Rivette, affidandosi al nome tutelare Balzac, di cui adatta un racconto, gira uno dei massimi film sull'arte, sul rapporto tra vero e rappresentazione, sulla creazione, sul sacrificio e l'ossessione, e infine sul vampirismo dell'arte e in fondo anche del cinema. Strepitoso piccolino, ma nella memoria non può che rimanere la performance incredibile della Bear, che recita nuda per quasi tutto il film. E beh, insomma, questo vale il prezzo del biglietto, fatemi dire, almeno lo valeva all'epoca, adesso può valere una bella registrazione notturna alle 4:30 del mattino giovedì, da cavallo tra giovedì 9 e venerdì 10 agosto su Rai Movie, La Bella Scontrosa. E invece appartiene tutto alla giornata di venerdì un film, come dicevamo, di segno totalmente opposto, ma insomma molto molto interessante, tratto da Stephen King, sempre prolifico sia come scrittore che come fonte per il cinema, diretto da un David Cronenberg di qualcosa come 30 anni fa. Stiamo parlando della Zona Morta. Sì, venerdì 10 agosto su Rai 4 alle 21:10 La Zona Morta. Un uomo si sveglia dal coma e scopre di avere acquisito un dono, vede il passato e il futuro delle persone con cui entra in contatto. Le conseguenze saranno costruttive e tragiche secondo i punti di vista, perché l'uomo decide di agire per modificare il futuro. Tratto da Stephen King, appunto, è un Cronenberg classicheggiante, una cosa strana nei suoi anni Ottanta, concentrato sul dilemma interiore dell'uomo e lontano dalle esplorazioni sul corpo e dagli effetti sanguinolenti che... di cui il suo cinema viveva in quel periodo, ma in realtà è assolutamente coerente, perché qui la preveggenza del protagonista è la mutazione che muta dolorosamente la vita e la percezione dell'uomo, e appunto la mutazione è l'ossessione principale di Cronenberg. Proprio insieme anche al viaggio nel tempo, infatti anche il suo ultimo libro che porta semplicemente la data dell'omicidio Kennedy vede proprio un protagonista che va al di qua e al di là del tempo attraverso un tunnel scavato in un bar e diventerà cinema, diventerà film con la regia di Jonathan Demme. Questo giusto per completare anche il profilo di Stephen King e del suo apporto, delle sue ossessioni, della sua capacità di interagire con il cinema. La Zona Morta, venerdì 10 agosto, 21:10 su Rai 4. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Ciao Franco, buona estate ai radioascoltatori e a te. E allora, dopo le segnalazioni dei film in televisione, un anniversario, non ci siamo dimenticati della grande Marilyn Monroe, quella rosa purpurea che moriva, scompariva prematuramente, troppo presto, 50 anni fa, il 5 agosto del 1962. Abbiamo voluto parlarvene in questa sede della trasmissione, in questa parte del nostro programma dedicato ai film da vedere a casa, l'home video, perché proprio in home video arriva un cofanetto che la celebra, innamorarsi ancora della sua leggendaria bellezza, Forever Marilyn, così recita il cofanetto della 20th Century Fox, Blu-ray inedito, 7 tra i film più amati interpretati da Marilyn Monroe. E quindi Quando la moglie è in vacanza, Come sposare un milionario, Gli uomini preferiscono le bionde, eccetera eccetera, anche titoli meno frequentati come Follie dell'anno, La magnifica preda. Insomma, per riscoprire il fascino di questa grande diva, forse la più grande di tutte, scomparsa esattamente 50 anni fa. Tra l'altro ne abbiamo parlato durante questa stagione qui alla Rosa, perché ricorderete, è uscito il film su uno spaccato appunto della vita, una settimana della vita di Marilyn Monroe, e quindi insomma valeva la pena ricordarla con questa segnalazione fattiva, perché vi permetterà di vedere in alta definizione 7 dei suoi film. A proposito di un video, e visto che ci siamo tuffati in questa atmosfera, siamo a ricordarvi, avete notato, non abbiamo giocato insieme questa settimana, il nostro game è andato in ferie, diciamo così, per il mese di agosto, ma poi dopo il Festival di Venezia tornerà più prepotente di prima con grandi premi in DVD e in Blu-ray, ma dobbiamo ancora darvi risoluzione e vincitori del game della scorsa settimana. E allora ascoltiamo una delle tracce che avevamo seminato. Io lo so chi sei. Voglio parlare col tuo capo. Controllo. Voglio fare uno scambio. Qualcosa di molto grosso. Voglio avere una nuova vita in Occidente. E allora si trattava de La Talpa, grandissima spy story firmata da Thomas Alfredson, un film di raffinato intrigo, anche come dire piuttosto complesso da seguire, tratto dal bestseller letterario di John le Carré, film mostrato proprio un anno fa alla Mostra del Cinema di Venezia numero 68. Hanno indovinato e hanno vinto per primi il sabato e la domenica Angelo Candito, o Candito, chi lo sa, di Roma, e Daniele Rielli di Bologna, e loro riceveranno il Blu-ray della Talpa, di cui ci racconta tutto il nostro Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, l'edizione Medusa Film Entertainment è DVD, ma soprattutto Blu-ray. In questo secondo caso c'è veramente la possibilità di rivivere a casa la medesima qualità della sala cinema, anche per il fronte audio, con questa doppia faccia DTS ad alta risoluzione italiano e inglese. Consiglio di ascoltarle entrambe, anche perché l'originale mette l'ascoltatore in un mood sicuramente più intenso. Numerosi gli extra, tra cui segnalo il commento al film di Gary Oldman assieme al regista, ci sono interviste al regista, allo sceneggiatore e agli interpreti principali, scene tagliate, ma un interessantissimo making of. E questo allora per quel che concerne La Talpa, dicevamo, il nostro game della scorsa settimana. Recensioni invece di novità che sono arrivate negli ultimi giorni, insomma, in videoteca. Ha vinto, un po' sorpresa ma molto meritatamente, un film di due grandi vecchi, fra virgolette, lo diciamo con estremo affetto, che si sono dimostrati molto giovani con questo film del cinema italiano, cioè i Fratelli Taviani. Stiamo parlando di Cesare deve morire, Orso d'Oro al Festival di Berlino. Cesare fu un amico giusto con me, leale. Quando vedeva piangere un povero, Cesare lacrimava. L'ambizione avesse a essere di scorza più dura. Eppure Bruto dice che Cesare era ambizioso. È Bruto e non me lo onora. Tutto quanto, tutto, avete visto come per tre volte io gli ho offerto la corona di re. Dal teatro del carcere romano di Re Bibbia, il Giulio Cesare di Shakespeare, 6 mesi di preparazione in cui gli attori detenuti hanno abbracciato un progetto dal sapore di sfida sulla ribalta, così come nella vita. dopo i provini e l'assegnazione di ruoli, lo studio delle rispettive parti con dialoghi nel dialetto d'origine, scelta che ha reso possibile un maggior avvicinamento al testo per gli interpreti e un'inusuale veste in scena. Toccante e coinvolgente questo Shakespeare rivisitato dai italiani, ma quando il detenuto sveste i panni d'attore per raccontare se stesso rimane forse la sensazione che proprio in quel momento stia indossando una maschera. Da CG Home Video un DVD di ottima qualità video, così come la traccia Dolby Digital Multicanale. Per gli extra segnalo l'incontro con i registi, molto interessante, ma ci sono anche interviste ai protagonisti, ma sicuramente su tutti 30 minuti di dietro le quinte. E per chiudere le nostre segnalazioni di questa settimana, arriva per la prima volta in Blu-ray un classico Disney come La carica dei 101. Anita, non essere ridicola, non puoi certo permetterti di mantenerli, ce la fate appena a sfamarvi voi altri. Oh, sono certa che ce la caveremo. Sì, lo so, Rudy e le sue canzoni. Basta con le sciocchezzette, li pagherò il doppio del loro valore. Come vedi, sono più che generosa. Accidenti a questa penna, accidenti, accidenti a questa pennaccia! Il matrimonio tra il compositore Rudy e la bella Anita porta all'unione dei rispettivi cani dalmata, dalla quale nasceranno ben 101 cagnolini. La gioia per l'incredibile evento è però funestata dalla presenza di Crudelia Demon, amica di Anita che mira ad acquistare in blocco la cucciolata per ottenervi un abito esclusivo. Il rifiuto di Rudy scatenerà l'ira funesta di Crudelia, che farà rapire i piccoli, ma lei non ha però fatto i conti con una banda di astuti animali che correranno in aiuto dei dalmata. L'amatissimo grande classico Disney targato 1961 è ora in alta definizione Blu-ray con un'impeccabile presentazione per una resa veramente da sala cinema. Ogni singolo fotogramma è restituito al meglio al punto da scorgere per la prima volta i residui elementi a matita. Doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano-inglese, superiore sicuramente alla lingua originale. Tra gli extra tutti già pubblicati, un making of di un'ora, approfondimenti sulla produzione e i personaggi, oltre a una notevole sezione dedicata a brani musicali inediti e sequenze alternative. Ebbene, allora grazie a Claudio Poffi che ci ha come sempre aggiornato con tutte le novità, su tutte le novità in videoteca, e buone ferie, buone vacanze anche a Claudio, che ritroveremo a settembre dopo le puntate veneziane. Ciao Claudio! Grazie, buone ferie a tutti, a presto. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata, la prima puntata di questo mese di agosto della Rosa Purpurea. Appuntamento alla prossima settimana. Prima voglio ringraziare Giorgio De Luca che ci ha dato una mano in redazione. Noi ci risentiamo regolarmente per tutto il mese di agosto e i soliti orari, con tante novità, tante visite sui set del nuovo cinema italiano che ci terrà compagnia nella prossima stagione. Il sabato alle 18, la domenica alle 15, come sempre qui alla Rosa Purpurea su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti. Thank you.